evidenti nel genere umano, ma non sappiamo chi siamo, non ci parliamo più, non ci ascoltiamo più. Abbiamo ancora sentimenti, ma non li comprendiamo, chissà se ce ne accorgiamo quando non valgono più, non ci somigliano più. Ci stringiamo la mano, per lo più sorridiamo, quando poi ci voltiamo non ci troviamo più e ci davamo del tu. È poco quello che diamo, ma non lo sappiamo, convinti che meritiamo, così facciamo reclamo per avere di più. Ho ancora bisogno di te per colorare i pensieri, per sentirci più veri, un po' più sinceri. Ho ancora bisogno di te per disegnare sentieri e scoprirci più fieri, un po' più leggeri di genere umano. Ho bisogno di te. Insofferenti, ma poi ci indigniamo, magari ci sorprendiamo se contestano noi con il senno di poi. Abbiamo slanci commoventi, ma non li seguiamo, quasi ci vergogniamo quanto tempo perdiamo per nascondere noi. Però per quel che valiamo, per lo più sorridiamo, siamo solo uomini che non credono più, ma ci aspettiamo di più. Ho ancora bisogno di te per colorare i pensieri, per sentirci più veri, un po' più sinceri. Ho ancora bisogno di te per disegnare sentieri e scoprirci più fieri, un po' più leggeri di genere umano. Ho bisogno di te. Ho ancora bisogno di te per colorare i pensieri, per sentirci più veri, un po' più sinceri. Ho ancora bisogno di te per disegnare sentieri.